Buongiorno a tutti e tutte, con leggero ritardo inizia la trasmissione a cura del collettivo universitario Sapienza Clandestina, uno spazio radio dove proviamo a dare voce alle lotte che si muovono nel mondo della formazione dell'università. Sono le 10.37, è mercoledì 18 marzo 2015 e per la prossima ora proveremo a farvi compagnia parlando di una serie di questioni e di battaglie che in questi giorni, in queste settimane dentro l'università, in particolare nell'Università della Sapienza, si portano avanti. Nella trasmissione di oggi inizieremo come tutte le settimane con una breve rassegna stampa delle notizie relative alla nostra università, alla Sapienza e più in generale al sistema universitario. Quindi andremo a sentire i compagni e le compagne del collettivo universitario autonomo di Torino, una città dove proprio a un mese di distanza dalla comparsata a Roma in Piazza del Popolo, Salvini andrà nella regione Piemonte, nella città di Torino, anche lì con istanze antigovernative, diciamo, chiamando una piazza legata alla sua lista Noi con Salvini. Quindi andremo avanti provando anche, se riusciamo, ma non siamo sicuri, a sentire anche i compagni dell'Università di Bologna relativamente a una campagna molto interessante che stanno portando avanti sul tema delle autoriduzioni. Se non ci riusciremo gli daremo spazio la settimana prossima. E ora, insomma, prima di farvi sentire la nostra sigla, daremo brevemente spazio alla mobilitazione europea e transnazionale che si sta dando oggi nella città di Francoforte per l'inaugurazione del nuovo palazzo della BCE, e quindi ora vi diciamo un po' i nostri contatti e poi proviamo a dare spazio qualche minuto a questa questione. Sì, allora buongiorno a tutti e tutte, e i nostri contatti per... Sì, allora buongiorno a tutti e tutte. I nostri contatti per comunicare con noi durante la trasmissione sono innanzitutto il telefono della radio 06 49 17 50. Potete inoltre trovare sul sito della radio www.ondarossa.info tutte le registrazioni podcast di questa e delle altre trasmissioni. Inoltre potete trovarci sulla nostra pagina Facebook Sapienza Clandestina su Radio Onda Rossa 87.9 FM e sul nostro sito di Sapienza Clandestina su NoBlogs. Ora vi lasciamo a una breve discussione per introdurre appunto il tema di quello che sta succedendo esattamente in questi momenti, a partire da stamattina molto presto, a Francoforte contro l'apertura della nuova sede della BCE, per poi lasciarvi alla registrazione di alcuni compagni che in diretta ci hanno comunicato l'accaduto. Quindi oggi giornata di mobilitazione in occasione dell'inaugurazione di questa nuova sede della BCE contro le politiche di austerity e di governo della crisi della Troica. E una giornata che ha visto diversi percorsi di costruzione, diversi appelli, ne parlerà anche, manderemo in onda una corrispondenza registrata a Radio Onda d'Urto. Vi leggiamo l'aggiornamento sul sito di InfoOut che riporta un aggiornamento alle ore 10 che dice che le azioni che si sono svolte sin dal primo mattino di oggi stanno per concludersi all'interno della mobilitazione messa in campo per tutta la giornata, che ha rilevato un livello di eterogeneità caratterizzata da diverse pratiche. Hanno portato avanti un obiettivo comune: le decine di migliaia di persone che stanno prendendo parte alla contestazione contro l'inaugurazione della nuova sede della BCE e contro il diktat della Troica che propone i piani di austerità hanno dimostrato la determinazione nel raggiungere e indirizzare la propria rabbia contro il palazzo di cristallo, blindato ad arte da una zona rossa e da migliaia di poliziotti. Gli interventi capillari in diversi punti della città ha caratterizzato oltremodo questa prima parte della giornata, arricchendola di potenzialità e di conflitto, ed è previsto appunto per oggi pomeriggio alle ore 14 un appuntamento per una grande manifestazione comune, insomma, di tutte le componenti della giornata di questa mattina, e che andrà appunto a comunicare in giro per la città di Francoforte il grande evento, insomma, vetrina di inaugurazione. Ora vi lasciamo qualche minuto a questa corrispondenza su Radio Onda d'Urto e poi mettiamo la nostra sigla. Buongiorno a tutti voi. Michele, innanzitutto ti chiediamo di spiegarci dove sei in questo momento, cosa sta succedendo. Allora, sì, in questo momento io sono, mi trovo nei pressi del ponte del Ostanbrücke, che è stato praticamente da qualche minuto sgomberata polizia riguardo al blocco che appunto da entrambi i lati bloccava l'accesso al ponte, un blocco che di fatto poi costituiva anche uno sbarramento nei confronti della polizia, che dall'altro lato cercava di impedire che appunto i manifestanti attestati sul ponte potessero poi andare a puntare verso la BCE. Questo è stato uno degli ultimi episodi appunto di attacco da parte dei manifestanti che sono arrivati da tutta Europa qui a Francoforte oggi per questa giornata. La giornata è iniziata prestissimo, sin dalle 6 del mattino, con cortei che sono partiti dall'università e da altre parti della città e che hanno di fatto poi sanzionato con la pratica dell'azione diretta e con la pratica dei blocchi diversi. Da parte della città di Francoforte, sia che si tratti di banche, istituzioni finanziarie, sia che appunto bloccassero le principali infrastrutture. È una giornata importante perché appunto di fatto la presenza numerica è senza dubbio significativa, si parla di decine di migliaia di persone, quindi in questo momento di fatto ancora proseguono i blocchi e i cortei selvaggi all'interno della città, differenziati diciamo per affinità. È comunque una giornata che ancora che rimarrà ancora comunque a lungo attiva, sicuramente continuano appunto i blocchi e le manifestazioni per tutto il centro cittadino. Ecco, quando parli di affinità, Michele, cosa intendi esattamente? Ecco, magari ci puoi spiegare un po' che differenza c'è fra i diversi colori, diciamo così. Certo, diciamo che comunque più che di colori, diciamo che comunque sin nella preparazione di questa giornata insomma ci sono state differenti anche posizionamenti politici, che ovviamente poi hanno anche un riflesso nella pratica di quella che appunto poi è la piazza di oggi, ovvero da un lato c'è quella che è l'esperienza diciamo di Blockupy in generale, che quindi diciamo è anche comunque al suo interno attraversata da dimensioni anche diciamo più partitiche, oltre che di movimento all'interno della dimensione della sinistra europea, e dall'altro poi ci sono anche altre reti di movimento come ad esempio Beyond Europe o Destroika, che hanno posizioni diciamo più marcatamente anticapitaliste e anti-autoritarie, che di fatto poi hanno creato momenti anche differenti di concentramento e poi anche di pratiche di piazza. Quindi insomma, quando parlo di affinità parlo anche diciamo di una diversa attitudine al tipo anche di conflitto da mettere in campo. Infatti ci sono stati sia blocchi statici nei pressi della BCE, sia comunque dimensioni invece di attacco, di corteo selvaggio, di azione diretta all'interno della città. Quindi insomma si tratta di una composizione diversificata anche nelle pratiche di piazza e ovviamente anche in quello che è l'intendere un po' la giornata di lotta di oggi. Ecco Michele, da adesso in poi cosa succederà? Riesci magari a fare una previsione anche, certo, di quelle che saranno? Allora, adesso in questo momento ci sono segnalati ancora diversi momenti di blocco all'interno della città, soprattutto nei pressi appunto ovviamente della torre, della nuova torre, la nuova sede della BCE. Per il resto continuano comunque anche a un livello di gruppi, ovviamente poi le azioni all'interno di quella che è la città, quindi insomma sicuramente saranno ancora mattinate in cui appunto un po' disgregati, un po' ricompattati, insomma si continuerà a praticare gli obiettivi e fare che comunque appunto la piazza sia determinata ancora a continuare la pratica degli obiettivi. Poi nel pomeriggio comunque alle 5, questo beh, lo sapete anche già, ci sarà un corteo cittadino che diciamo che poi riporterà anche al pomeriggio su una scala più ampia di comunicazione cittadina quella che è stata anche la giornata forte di opposizione che si sta dando sin dalle prime luci dell'alba di oggi. Benissimo Michele, grazie intanto e a risentirci sicuramente ancora nel corso della giornata. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Per precisare chi era all'ascolto, questa corrispondenza risale sicuramente a qualche ora fa, gira sul sito di Radio Onda d'Urto già da un po' di tempo. Quello che ho letto prima era un aggiornamento invece più recente di come le diverse azioni e mobilitazioni che precedono la manifestazione che ci sarà si sono date per la città di Francoforte. Quindi insomma, se ci saranno aggiornamenti di particolare interesse proveremo anche a dargli spazio in questa ora di trasmissione di Sapienza Clandestina. Ora vi lasciamo alla nostra sigla e poi iniziamo a introdurre gli argomenti. La

posti, i lavori dovrebbero terminare entro la fine di marzo e dovrebbero essere inaugurate queste due aule dopo le festività di Pasqua. Ebbene, diciamo, noi siamo molto portati ad essere critici rispetto alla gestione che si è fatta negli ultimi 6 anni da parte del ormai ex rettore Frati e dalla gestione che si fa dell'Ateneo della Sapienza da parte anche di quello che poi abbiamo definito tante volte essere il suo delfino, Gaudio, l'attuale rettore. Ebbene, questa iniziativa, diciamo, nello spettro di iniziative o non iniziative rispetto ai bisogni degli studenti, ci sembra anche tutto sommato nel bilancio abbastanza positiva. Ovviamente noi siamo portati a diffidare rispetto alle promesse di tali rettori, perché tante volte ci hanno deluso in passato e siamo stati portati a dover contestare delle promesse che poi non sono state mantenute. Noi ovviamente ci auguriamo che questa faccenda delle biblioteche notturne, insomma aperte nella fascia notturna, sia vera. Bisogna però fare, diciamo, un appunto, una mini riflessione al riguardo, perché comunque se c'è l'intenzione di aprire queste biblioteche durante la notte c'è una carenza, e noi l'abbiamo messo tante volte in risalto attraverso l'occupazione dei nostri spazi, prima col Lucernario, adesso col Tresserrande, attraverso l'opportunità di avere un'aula studio aperta dalla mattina alla sera 6 giorni su 7, che il problema è che le biblioteche che sono adesso presenti e messe a disposizione dall'Ateneo, diciamo dal rettore e dal rettorato, chiudono nel primo pomeriggio, al massimo verso le 4. Per cui spazi di studio, di aule studio dove gli studenti possono incontrare e studiare fino a tardi, di fatto non ce ne sono. E questo problema non è che viene arginato dall'apertura di aule notturne, perché c'è poi il bisogno di un'apertura di aule studio, piuttosto che di biblioteche, piuttosto che in generale di spazi di condivisione degli studenti, che non siano soltanto quello dove fanno lezione, al di là dell'orario che viene disposto adesso. Quindi diciamo che questo dovrebbe essere un piccolo passo, qualora venisse veramente attuato, verso diciamo un cambiamento che deve essere molto più grande e toccare molti più aspetti che provengono dalle richieste e dai bisogni poi degli studenti. In questo modo poi Repubblica riportava anche diciamo un accenno rispetto al fatto che esistono degli spazi autogestiti, la metteva, diciamo così, vaga l'articolo di Repubblica, che hanno cercato di sopperire a queste mancanze. Ovviamente noi non possiamo fare a meno di sentire il riferimento alla nostra realtà, Sapienza Clandestina, in quanto noi, da quando esistiamo, oramai da più di 2 anni, cerchiamo esattamente di intervenire all'interno dell'Ateneo, creando degli spazi e dei momenti lì dove questi non esistono. Posto anche il fatto, e poi chiudo per passare a un altro articolo, che gli spazi ci stanno, e come, il problema è che sono vuoti. Ne abbiamo contati svariate decine nelle nostre perlustrazioni all'interno dell'Ateneo, che non vengono utilizzati o che sono sottoutilizzati, nel senso, appunto, citavo prima le biblioteche che finiscono alle 4 di riportare il loro servizio. Per cui, diciamo, di lavoro da questo punto di vista ce n'è moltissimo da fare, e noi ci stiamo impegnando sempre di più per portare a termine le nostre iniziative. Come commentava bene Arianna, questa novità dell'università, insomma, ci fa un po' sorridere, staremo a vedere, e fa anche sorridere come su Repubblica, insomma, anche addirittura su Repubblica si parla di degli spazi autogestiti, e come poi, anche se nessuno ce ne rende conto, anzi, quando se ne aprono di nuovi vengono sempre minacciati di chiusura e di diverse bugie tirate su progetti costruiti sempre ad hoc nel momento in cui uno spazio viene riaperto. Però poi evidentemente si prende anche spunto e si prova anche ad affievolire le possibilità di presa di coscienza e di mobilitazione degli studenti legati anche ai bisogni più fondamentali. Quindi non lasciamoci sbugiardare, anche perché l'università è in una situazione, come raccontiamo ogni mercoledì, estremamente difficile e perversa. Infatti anche sui media mainstream si parla di università ormai senza peli sulla lingua, come un buco nero, come un grosso problema, e il mondo accademico come un mondo veramente precario, dove il clientelismo e la possibilità di raggiungere una posizione stabile, insomma, sono sono aspetti parecchio problematici. E sull'Espresso, sul sito web dell'Espresso è uscito l'altro ieri un articolo interessante dal titolo Università altro che merito, è tutto truccato, vi racconto come funziona nei nostri atenei. Insomma, un articolo che probabilmente non aggiunge niente di particolarmente nuovo a tanti aspetti appunto del percorso accademico che già conosciamo, insomma, però è interessante vedere come con costanza poi il tema dell'università viene raccontato in parte come i collettivi, come noi impostiamo, quindi come una situazione molto difficile. Il sottotitolo dell'articolo è Fondi sperperati, concorsi pilotati, giovani sfruttati. Un dottore di ricerca spiega nel dettaglio come si muove il mondo accademico tra raccomandazioni e correnti di potere, e qualcuno non vuole che il libro in cui riporta tutti gli scandali venga pubblicato. Ora, sulla questione del libro di questo Matteo Fini, l'articolo è di un tal Maurizio Di Fazio, questo libro e quindi questo anche giovane ricercatore che ha tentato nella sua vita di appunto accedere a una posizione stabile dentro l'Accademia, ma si è scontrato col muro dell'università azienda dell'università in cui i tagli impongono una sempre maggiore corsa e guerra fra le persone che vogliono accedere a questi posti, e quindi da un altro lato una crescente e enorme ricattabilità di questi soggetti all'interno del loro percorso lavorativo e accademico. E questo Matteo, in quest'articolo Matteo Fini racconta la sua esperienza, racconta anche di pressioni che sono state fatte nei suoi confronti per diciamo tacere su questo argomento rispetto a questo libro che stava scrivendo, ma a parte le pressioni nei suoi confronti, quello che racconta e quello che evidenzia questo articolo è come all'inizio del proprio percorso di ricercatore uno si avvicini a un professore che in qualche modo ti propone il dottorato, ti propone un primo passaggio all'interno del mondo della precarietà e quindi della ricerca vera e propria, e in qualche modo appunto dice ti va di fare il dottorato e tu rispondi ok e cominci e pensi che sei davvero bravo, un eletto. Ora sto leggendo l'articolo. A quel punto però vieni risucchiato e la strada ti fa cieca. Al meccanismo ci si abitua subito, prendere o lasciare, i più prendono, compreso questo dal Matteo Fini. Quindi si entra all'interno di un percorso in qualche modo che non ti fa vedere fuori quali altre possibilità c'hai. All'interno c'è un livello di ricattabilità e di precarietà veramente notevoli. Insomma, vengono raccontati un po' fatti su singoli concorsi, diciamo gli impicci che ci sono dietro. Su questo mi soffermo meno, che sono cose abbastanza note, dai colori delle penne a chiaramente il fatto che i concorsi vengono banditi se già ci sta il soggetto che deve ricoprire quel ruolo, quindi sono concorsi cuciti addosso a delle persone, ma anche questo diciamo non sono penso grandi novità, ma fa bene sempre ricordarlo, e è interessante appunto vedere che anche sull'Espresso si parla di università in questo senso. E appunto si parla anche di assegnazione dei fondi, diciamo appunto riporta come quando vengono assegnati i fondi di ricerca i professori e i dipartimenti si associano e mettono su un progetto alimentato dal blasone dei docenti messi insieme per appunto raccogliere questi fondi. Dentro questi bandi vengono infilati anche dei ragazzi giovani, dei dottorati con la promessa che verranno messi poi a lavorare quando poi magari i soldi arrivano, ai ricercatori dottorandi rimangono le briciole, se non proprio un'esclusione, e i fondi poi vengono gestiti dai professori e dai dipartimenti. Si parla anche dei libri universitari, dice appunto come molti docenti scrivono dei libri che poi adottano a lezione le proprie lezioni, e come le case editrici obbligano questi docenti a comprarsene un tot, e questo tot viene sempre comprato con i soldi della ricerca, i soldi dei dipartimenti. Va avanti, insomma, parla della didattica come fanalino di coda e critica in generale il sistema della ricerca. Comunque è un articolo in qualche modo interessante, e possiamo quasi dire che consigliamo magari dargli una letta, e se lo potete trovare sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, non stiamo pubblicando ora in diretta, e quindi da questo punto di vista insomma voleva essere insomma per riprendere un po' il filo di questi argomenti e vedere che appunto poi anche in giro per la rete e fra le università, soprattutto tra le persone che realmente compongono tutti le parti di questo mondo universitario, quindi anche i dottorandi, anche i ricercatori. Poi, nonostante l'assenza di grosse mobilitazioni qua in Italia, ci sia un forte malcontento, anche un livello alto di consapevolezza e di denuncia di quali sono i meccanismi. Purtroppo probabilmente manca la capacità di mettersi insieme e capire come cambiare questa situazione, perché forse ci si è anche persi le speranze, ma insomma speriamo che questo non duri a lungo e che, partendo dagli studenti ma arrivando fino a questi soggetti precari, ricercatori, dottorandi, si riesca in qualche modo ad affermare che non si può, come diceva bene in quest'articolo, non si può essere giovani sfruttati in un mondo in cui i concorsi vengono pilotati, in cui vengono sperperati i fondi, in cui vengono tagliati, e rimanere a guardare senza voler dire la propria, appunto, in una società dove i giovani, gli studenti non hanno spazio. E quindi ora vi ripasso la parola ad Arianna, che vi leggerà un ultimo articolo e poi insomma vi lasceremo un po' di musica. Sì, più che la lettura, diciamo, riprendo un argomento che avevamo già affrontato nelle trasmissioni precedenti e che riguarda sempre l'Ateneo della Sapienza. Diciamo, do un veloce aggiornamento: parliamo della chiusura dell'Istituto di Medicina Legale al Verano, che fa parte, diciamo, dell'Università della Sapienza, dopo una, diciamo, un'inquisizione, un blitz dei NAS, del Nucleo di Antisofisticazione e Sanità, nel settembre 2014. Avevamo ricordato in un'ultima trasmissione, quando era uscita fuori a livello di inchiesta giornalistica questa faccenda, che praticamente le condizioni sanitarie, per così dire, erano disastrose se non tragiche, nel senso che si parla di un obitorio, si parla di posti dove studenti e non solo andavano a fare le autopsie sui cadaveri, ma anche un luogo dove venivano conservati, il più grande a Roma, nella capitale, i cadaveri di morti di morte violenta, diciamo così, questa categoria di cadaveri, per parlare di cose un po' macabre. E niente, cosa succede? Le condizioni igieniche di questo posto erano a dir poco tragiche. I NAS hanno fatto un blitz e hanno costretto praticamente il rettore Gaudio alla chiusura, il quale rettore Gaudio però si era inserito in una situazione che già da anni andava avanti così precariamente riguardo la sanità e l'igiene di queste stanze e di questi luoghi. Infatti il primo indagato non è Gaudio, bensì, e ritorniamo ancora a bomba, l'ex rettore Luigi Frati, ma non soltanto lui. Infatti la novità sui quali, insomma, vi volevo aggiornare, che gli indagati oltre a Luigi Frati sono Elio Ziparo, che è un accademico con un robusto curriculum, diciamo un personaggio di spicco all'interno della Sapienza, e Pierluigi Benvenuti, l'ex presidente AMA, oltre a Domenico Alessio, che è il direttore generale dell'Umberto I dal 30 agosto 2012, il quale ovviamente, sempre sulla linea anche di Frati, smentisce tutto e dice: io non c'ero, insomma, se c'ero dormivo, eccetera. Diciamo, tutte le scuse ben sappiamo. Fatto sta che il caso, che era stato provato a mettere soltanto nelle mani del rettore della Sapienza Gaudio, che aveva detto: ok, chiuderemo quei locali per il momento, tutti i cadaveri verranno messi al Gemelli, dove però non c'è abbastanza spazio per tenerli perché non c'è una capienza tale da soddisfare questo servizio, comunque mi occuperò io della gestione della faccenda. Ma questa cosa non è bastata, diciamo, ai carabinieri, a tutti quelli che stanno portando avanti l'indagine, non soltanto in NAS, i quali hanno detto che questa situazione resta sotto il loro controllo e che Gaudio assolutamente non può attutire la gravità di questa faccenda, e che gli indagati verranno perseguiti anche penalmente. Quindi stiamo a vedere. Ricordiamo che Luigi Frati ha indagato, non so, per praticamente qualsiasi cosa tranne forse omicidio colposo, quindi staremo un po' a vedere se questa volta riescono ad incastrarlo. Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. Yeah.

Ebbene, di nuovo salve a tutti e tutte qui sugli 87.9 è Sapienza Clandestina e siamo in corrispondenza con un compagno del CUA di Torino che ci racconterà un po' quello che insomma introducevamo velocemente prima, ovvero la calata del leader della Lega Matteo Salvini a Torino a un mese preciso di distanza dall'ultima sua visita nella capitale, finita disastrosamente per tutta una serie di motivi, ma ora lasciamo spazio a chi ci racconterà come si stanno organizzando e come stanno pianificando il benvenuto, speriamo con tutte le feste del caso, al leader della Lega. Ci senti? Sì, sì, vi sento. Ok, allora no, come dicevamo, vediamo che è prevista già per i prossimi giorni un'assemblea all'università, anzi oggi un'assemblea all'università in cui parlerete di questo tema, di che cosa significa avere Salvini in una città come Torino, anche alla luce della campagna Mai con Salvini che si è portata avanti qui nella capitale, e che cosa insomma pensate di fare e di mettere in campo. Allora, innanzitutto ciao a tutti e tutte, ringraziamo Sapienza Clandestina insomma per la possibilità di raccontarvi quella che sarà la giornata di oggi e poi vedremo nello specifico la giornata del 28 che, come dicevi giustamente tu prima, vedrà la partecipazione di Salvini e dei militanti della Lega, non solo, ma pensiamo anche di tutte quelle forze come Casa Pound, che adesso sono i loro amichetti, insomma i loro alleati. Allora, andando con ordine, diciamo un po' quello che è la giornata di oggi. Come dicevi prima, c'è l'assemblea pubblica cittadina alle 5 a Palazzo Nuovo all'Università di Torino e insomma vediamo un po' quelli che saranno i temi che verranno buttati fuori e come intenderemo organizzarci. Diciamo che sicuramente la partecipazione dell'assemblea e la gente che ci saranno rispecchierà obiettivamente quella del 28, perché come l'anno scorso è stato al raduno leghista in piazza Carlo Alberto, appunto c'erano tantissimi giovani e giovane, ma non solo, anche normalissimi cittadini che appunto hanno voluto manifestare il loro dissenso contro quello scempio che era il raduno leghista, in particolare contro le parole di Borghezio. Noi ci siamo riversati nelle piazze, in piazza Castello abbiamo trovato appunto un grosso schieramento di forze dell'ordine che ci hanno impedito il passaggio, ma in qualche modo diciamo abbiamo voluto dare gridare forte il nostro dissenso contro quel raduno. Il 28 invece la Lega Nord appunto cercherà di sfilare un po' per le strade di Torino contro la giunta regionale del PD in merito appunto allo scandalo delle firme false della lista Chiamparino che l'hanno recentemente coinvolta. Nella città, diciamo che nella città di Torino in particolare, il partito di Salvini cerca ancora di racimolare quel po' di consenso facendo appunto leva sulle sue posizioni populiste, razziste, xenofobe, nella speranza di costruire diciamo un fronte unitario della destra come può essere la Le Pen adesso in Francia. Però diciamo che se la gente non si dimentica, i cittadini di Torino non dimenticano, la Lega la conosciamo molto bene in questo senso. Ricordiamo appunto gli sperperi della giunta Cota, l'uso del denaro pubblico per le spese private dei consiglieri, lo smantellamento delle borse di studio, contro cui appunto ieri giusto appunto Salvini diceva di voler parlare di istruzione, però la giunta di cui appunto la giunta della Lega Nord aveva smantellato le borse di studio eliminando quel diritto sacrosanto e la chiusura poi per lo più anche delle eccellenze sanitarie sul territorio con la riduzione dei posti letto e del personale. E diciamo che se i cittadini non dimenticano, c'è anche quella grande voragine di debito che appunto grava sulla città e che lo stesso Chiamparino, in continuità con le decisioni del governo e quindi anche con l'appoggio diciamo e l'occhiolino della Lega, Oggi da Palazzo Lascaris continua tutta una serie di tagli ai servizi fondamentali come la scuola, i trasporti, la sanità e la cultura. Certamente la giunta Salvini non rappresenta di certo un'alternativa al governo Renzi e alla giunta di Chiamparino, ma insomma rappresentano un po' la stessa faccia della medaglia, e quindi insomma ora vediamo un po' come i temi che verranno fuori dall'assemblea pubblica di oggi, come intenderemo organizzarci, quali saranno le forze, cosa vogliamo mettere in pratica per quella che sarà il 28, una grandissima giornata di sicuramente di antifascismo e antirazzismo contro Lega e il nuovo Le Pen italiano, e sicuramente anche contro quei militanti di Casa Pound che si presenteranno ad Armanforte alla nuova voce della Lega Nord. Quindi vediamo un po' quello che verrà fuori oggi. Eh sì, anche nella città di Roma, insomma, abbiamo provato a chiamare delle assemblee pubbliche e si è creata anche parecchia partecipazione, perché poi, come raccontavi benissimo te, la Lega non rappresenta neanche più soltanto quel partito folcloristico che sicuramente a Torino conoscevate più che a Roma, che almeno, certo, almeno quelli ce l'eravamo risparmiati per ora, però come dicevi bene tu, insomma, assume tutta una valenza anche politica più interessante e più importante andare a contestare oggi Salvini, e poi un soggetto talmente lui stesso che si pone su un piano molto mediatico e che riesce a raggiungere, anche grazie allo spazio che gli viene dato, tantissima gente, è un'occasione grande anche per le lotte e per i collettivi, certo, e per mobilitarsi in questa occasione. Ci interessava provare a fare con te anche un piccolo ragionamento rispetto a degli avvenimenti, sì, che proprio nella vostra città e proprio nell'università ci sono stati nella settimana scorsa. Abbiamo visto come succede periodicamente i fascisti del FUAN provare di nuovo, quello che a Roma è Azione Universitaria, provare di nuovo a spuntare con un gruppetto nella sede dell'Università di Torino, esatto, a volantinare. Come al solito, prontamente gli studenti e le studentesse dell'Università, come abbiamo visto con piacere da Roma, hanno impedito o hanno contrastato in maniera forte quel volantinaggio, ci sono stati dei fermi, ma a parte, diciamo, le vicende più pratiche, ci è sembrato molto interessante, anche da un lato molto preoccupante, il dibattito che alcuni personaggi pubblici hanno deciso di avvalorare su appunto il solito tema della libertà di espressione, tema che negli ultimi mesi, anche legati alla vicenda di Charlie Hebdo, ma in generale sul tema dei fascisti e della chiusura degli spazi che giustamente i compagni decidono di portare avanti. Quindi ricordo anche anni fa, quando a Roma ci fu il primo corteo nazionale di Casa Pound e si chiamò una manifestazione contro, anche come al solito anche intellettuali di quella che tra virgolette qualcuno ha il coraggio ancora di chiamare sinistra si schierarono a difesa della libertà di espressione di Casa Pound. Abbiamo visto la vergognosa presa di posizione di Zagrebelsky e quindi, diciamo, ci interessa anche di Caselli, che insomma sì, sicuramente c'ha il dente un po' avvelenato con i compagni e le compagne della città di Torino. Esattamente. Però insomma ci è sembrato particolarmente grave il clima che si è andato ad alimentare, particolarmente anche prezioso poi il contributo che siete riusciti a dare anche come collettivo, abbiamo visto i testi prodotti, però insomma se ci vuoi dire qualcosa su quello che avete ragionato e su... Allora, guarda, ti ringrazio anche per questa domanda, perché appunto anche per spiegare un po' quello che è successo e le prese di posizione che ci sono state dopo, come dicevi tu, soprattutto da personaggi pubblici come Zagrebelsky. Beh, diciamo che loro si sono arroccati su quella posizione democratica elevatura, definendo l'antifascismo come libertà, ovvero come la libertà che tutti quanti hanno di poter esprimere le loro idee, in questo caso facendo e attaccando proprio deliberatamente in particolar modo il centro sociale Ascatasuna e non solo, i compagni e le compagne del centro sociale del collettivo universitario autonomo, che in quella giornata hanno cercato appunto di voler impedire un volantinaggio di stampo xenofobo, perché ricordiamolo a tutti che il volantino recitava testualmente così: le borse di studio prima agli italiani. Bene, da quel punto di vista noi possiamo ribattere al gentile Caselli e Zagrebeschi che se comunque anche il rettore dell'Università di Torino, cioè Gianmaria Aiani, autorizza all'interno della sua università un volantinaggio di questo tipo e non è l'istituzione a pensare a fermare un gesto, quindi una propaganda politica di questo tipo in vista anche delle elezioni universitarie, bene, allora quindi saranno gli studenti e le studentesse dell'università a impedire che questo accada. Ora noi siamo usciti anche con alcune considerazioni, pensavamo di doverci fermare sinceramente a una sola pubblicazione per ormai raccontare un po' le solite giornate in cui viene il Fuan a volantinare, quello che succede e tutto quanto. Diciamo che c'è stata appunto il racconto di quel ragazzo che è stato colpito eccetera via durante una colluttazione in cui appunto versava le sue lacrime da coccodrillo raccontando ai giornalisti che lui non c'entrava assolutamente niente con il Fuan, non era un militante né tantomeno un simpatizzante, però eppure quel ragazzo si trovava lì e mentre insomma eravamo lì a contestare il Fuan lui aveva proprio esplicitamente detto di farne parte, insomma, poi arroccandosi su quell'immagine, quell'icona nazionale della lotta contro la mafia di Paolo Borsellino, a cui l'auletta del Fuan, che è nel campus Luigi Einaudi, è dedicata, appunto volendo difendere quell'icona sacrosanta nazionale, appunto è passato per vittima, quando invece poi furbo lui, non tenendo l'anonimato, uscendo sui giornali, andando a vedere un po' su Facebook che persona poteva essere, è venuto fuori che magari non è neanche un militante ma un simpatizzante, lo è come, fin tanto che una persona così difende i razzistelli, i fascistelli del Fuan, bene, quindi non sappiamo neanche più, lo sappiamo che diciamo i giornali ormai non hanno più notizie da raccontare, ma dedicare ben due pagine a una vicenda del genere quando si potrebbe parlare altro della città di Torino, ci sembra veramente esagerato. È uscita la notizia sulla Stampa, La Repubblica, Cronaca Qui, che è un altro quotidiano torinese, insomma ci è sembrata un po' assurda e abbiamo voluto fare chiarezza sulla vicenda con un'altra pubblicazione. Mi pare poi due giorni dopo sono uscite le dichiarazioni anche di Caselli e di Gustavo Zagrebeschi, che appunto davano tutta una loro definizione di antifascismo e quant'altro sulla libertà di poter volantinare, insomma gli autonomi sempre i soliti violenti, diciamo la stessa solfa che ormai si ripete della città di Torino contro quei personaggi che vediamo che inquisiscono i notav e quant'altro. Diciamo questo è un po' a grandi linee quello che è successo. Noi abbiamo scritto un ulteriore contributo, in particolar modo dopo le uscite di Zagrebeschi e di Caselli, che forse avrete avuto modo di leggere. Diciamo che noi più di tanto non vogliamo neanche dare giustificazioni, perché a questi personaggi sinceramente non meriterebbero neanche l'attenzione, ma vista un po' diciamo quello che è stata l'attenzione pubblica sul fatto e su quello che è accaduto all'interno dell'università, scandalizzandosi anche per delle scritte sui muri, che appunto sulle scritte antifasciste nell'auletta di quelli del Fuan, ci sembra un po' esagerato. Diciamo che se dobbiamo arrivare al punto di dover giustificare l'antifascismo, beh, voglio dire che siamo proprio alle cozze. E niente, questo è tutto, mi pare di aver delineato un po' quello che è stata la giornata e poi le pubblicazioni successive. Guarda, ti ringraziamo molto per questo ragionamento, insomma ci interessava, perché quello che è successo su questi fatti ci sembrava particolarmente grave e interessante, soprattutto se pensiamo a quanto a questi intellettuali di sinistra interessi poco che il tema della libertà di espressione, quindi anche della conoscenza, della diffusione della conoscenza, è un buco nero in Italia, se pensiamo appunto alle università, alla formazione e appunto a tutte le lotte che noi mettiamo in campo. questa libertà di espressione fra virgolette che non esiste, perché appunto se non dici determinate cose dentro l'università nessuno ti dà più spazio, se, non interessa, guarda un po', non interessa un po' a nessuno, invece quando vengono colpiti questi personaggi qui, insomma, sono tutti in prima linea a difenderli, quindi ti ringraziamo molto per la corrispondenza, vi auguriamo un'ottima costruzione dell'opposizione a Salvini e ci sentiamo presto. Va benissimo, grazie mille a tutti voi, un saluto, a prestissimo, grazie. Ciao, a presto. E bene, sì, poi insomma leggevo per concludere che Caselli ha anche paragonato gli studenti di Firenze e di Torino ai membri del califfato e all'ISIS, però così tanto per aggiungere una nota goliardica alla faccenda. Io, diciamo, in chiusura dell'argomento anche che toccava in queste ultime note, come ci raccontava il compagno, di antifascismo e opposizione ai fascisti, in questo caso del Fuan, volevo riportare invece un episodio accaduto al polo opposto, quello sud della nazione, in particolare a Napoli, dove questa domenica alle 20:30 un compagno dell'ex OPG occupato, che è uno spazio occupato nel quartiere Mater Dei oramai da settimane, che sta facendo, diciamo, un ottimo lavoro, uno spazio molto grande che è già divenuto occupazione abitativa per studenti e studentesse, compagni e compagne, ma non solo, abitanti del quartiere Mater Dei, per una trentina, quarantina di persone. Insomma, il fatto è anche abbastanza diciamo abitudinario, se pensiamo alle dinamiche con cui i fascisti, in questo caso di Casa Pound, fanno questo tipo di attacchi ai danni dei compagni. Insomma, questo compagno stava girando per il centro di Napoli, abbastanza ma non troppo vicino alla sede ufficiale, diciamo, di Casa Pound nella città di Napoli, e insomma è stato aggredito a cinghiate da alcune teste rasate, insomma fatti che purtroppo sentiamo molto spesso. Ovviamente i compagni dell'ex OPG stanno mettendo in campo tutta una serie di iniziative antifasciste molto interessanti, e vi invitiamo a seguirli anche sulla loro pagina Facebook. Sì, quindi non è mai fuori moda parlare di antifascismo, non è mai insomma da mettere sullo stesso piano della libertà di espressione quella di chiudere lo spazio a chi volutamente pratica razzismo, pratica discriminazione, pratica violenza, soprattutto se la pratica dalla parte del potere, è sempre con le spalle coperte da chi poi porta avanti queste le riforme che distruggono il mondo della formazione, e da chi poi gli garantisce, guarda un po', l'incolumità e poi in futuro anche magari un bel posto di lavoro. Vi lasciamo un po' di musica e poi ci risentiamo per i saluti in chiusura. Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgerci. Tutti noi qui vogliamo la pace e lottiamo per essa. Ma questo non vuol certamente dire che abbiamo paura. Se le circostanze ce lo imporranno, non esiteremo un istante e ai nostri eventuali aggressori risponderemo colpo su colpo. Occidente, sempre più di frequente si impone, condizione che non paga, e un po' dei raga sono in attesa della tregua giù in strada, scena che non quadra, perché il sole non scalda, l'amore non brucia, il silenzio non calma, o solo perché il sangue non commuove, come una goccia che cade nell'oceano quando piove. È così, va così, conta solo il prezzo da pagare per chi cerca amore, il braccio segue nella stecca, la otto in buca, chi perde paga, la fortuna è cieca, hai visto mai cambiasse il mondo non cambia, rabbia, rivoluzione per la gente nella mente serve, unità divise come lo yin e lo yang, come la yoni e l'ingan, l'euforia dopo il dramma, dilemma interno, bene e male, paradiso e inferno, guerra e pace in ogni via, lo scenario odierno, qui si impara in fretta, andare a tempo, per un'ora d'amore, segue un'ora per lo sbattimento, 100 probabilità su 100, il centro, il movimento è dentro, lottano ragioni e sentimento, proiezioni cercano l'esterno, buca bloccano lo schermo, niente può restare fermo. No futuro nel dolore della guerra, pace per la gente sulla terra, ma va da sé che ora già salvo cielo su di noi. Dei tempi, preda dei venti, stenti, disordine fra gli elementi, è fuori e dentro, intorno, adesso il freddo, addosso ritorno, la notte non trova il giorno cancella la notte, sentimi, pace dei miei occhi, nei tuoi occhi svegliami, sogni da confondermi un attimo, il battito dei nostri cuori, lasciando in pausa il mondo fuori. Tutti contro tutti, oggi giorno è la prassi, qui se non scassi, incassi, solamente colpi bassi, serve fotta anche più di Jack la motta sul ring, è un ton di strategia. Come Jinx è qua, è Sing Sing tipa. Ci si becca a mezzanotte per la fuga. Fanculo e barracuda, in queste acque vai libre come Cuba. E già sai, ciò che non ci sfrega ci rende mega. Una è per la magia che ci strega. Le sirene, i cani nelle arene che hanno combattuto bene. Sai da dove viene, ma non si sa dove va. Che sarà, sarà, è l'anima che parla. Ora quei giorni sono distanti e i miei occhi pronti per dare forma ai nuovi orizzonti. Solo un cico con la sua missione che guarda il mondo mentre gravita tra guerra e pace come la canzone. Ora già sai, già salvo sai. Cielo su e di noi, i miei occhi sono. Dimmi che tu già pronti a darti quello che serve può. La vita ti va, fino alla fine ti va. Ma il mondo è guerra e pace per noi. Ora già sai, già salvo sai. Cielo Sono le 11.33 di mercoledì 18 marzo 2015, siete all'ascolto della parte finale della trasmissione a cura di Sapienza Clandestina, una trasmissione dove tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 si parla delle lotte nel mondo della formazione. E appunto siamo in chiusura, volevamo giusto salutarvi, ricordarvi i nostri contatti, appunto ho ricordato la trasmissione che tutti i mercoledì va in onda su le libere frequenze di Radio Onda Rossa e agli 87.9 della modulazione di frequenza, e ricordiamo anche i contatti di Radio Onda Rossa, l'email ondarossa@ondarossa.info, il numero di telefono 06 49 17 50 e il sito www.ondarossa.info. Ebbene sì, prima di salutarvi vi ricordo un paio di appuntamenti. Innanzitutto il Cine Clandestino, che portiamo avanti oramai dall'inizio del 2014 al Tresserrando Occupato nella Facoltà di Farmacologia e Fisiologia all'interno dell'Ateneo della Sapienza. Oggi proietteremo, ovviamente come sempre a costo zero, un film attualmente nelle sale, Whiplash, e la prossima settimana un altro film che adesso lo trovate nelle sale, Vizio di Forma. Portatevi i popcorn, se no li potete comprare al nostro bar, e noi vi salutiamo e vi rimandiamo all'appuntamento sempre di mercoledì alle 10.30 con la trasmissione di Sapienza Clandestina. Ciao a tutti e tutte. Sì, vi lasciamo a uno spazio redazionale sui fatti molto importanti che sono avvenuti negli ultimi giorni, e lo scandalo, insomma l'ennesimo scandalo legato agli appalti, a Expo, alla TAV, in cui è coinvolto il nostro caro ministro Maurizio Lupi. Vi lasciamo un po' di musica, a presto.